One two, legate l'osche sul mic. Questa terra dove la street credibility resta tutto. La vita. Un pezzo incazzato col mondo. Immigrato nel Val d'Agro dalla nascita, ma la calata non tradisce la mia crescita. Nel cuore sangue apuano, tanto confino toscano, ma porto dentro il calore come un grappino nostrano. E non lo sai come mi chiamo, ma ben via, che se tu sai il mio nome e basta lo domande alla tua figlia. C'è in giro del della, da rifredi all'antenna, ma per favore non mi nominare la tua sorella. Mi dissero vai in mezzo e fa un po' il bischero, in tiro su sto palco come ragazzi nel cassero. Cattivo come un tanghero, sono schecco a chi osa. C'ho un suono così fresco, vai un passero di bosca ballombrosa, posa l'osso che mi spetta di diritto, scarnificarle tutto, soddisfazione doppia del filetto con il piatto, Brunella fiotto un gozzo, un filo d'olio grezzo, concludo con un rutto e poi so a posto. Nei posto abbiamo complici, muoviamo i vostri coccici, siamo come il buon canti di OCG, ma oggi buttero, attento e sughero, o indovina questi dove te lo buttano, datemi un brindisino, manca ogni vinello, ogni boccione, per effetto che in effetti tu sei più coglione. Battendo sopra i quarti come le baldracche di testone, ci si mette l'altri in tirarvi stedula che sto pezzone. E so parole messe in fila che vi danno sintassi in prole più la rima. Uzi scherza mia e tu lo sai e soffino. E ogni volta che si rappa vi si chiappa e si riscalda come grappa a vereccia mentre vu canta e brindisino. Le macello le casino, col rap un arrivo a farmi cibottino. Pasteggio col fegatello sul crostino, discendo dallo stornello di contadino. Primo l'effetto che più lo fai più maffia. O busco ciahe, scarpe slacciahe, braghe calahe, mica cazzahe. Quanti bussiehe, un vo' sentito bene. Quanti bussiehe, o un vu bastahe. Brindisino, la la la la. Dite brindisino. Tatuato sul petto, guardo i monti di rimpetto tra Firenze ed Arezzo, con le punte dei bag inzaccherate di sterro. Signorine schifate del gradimento, di serenate, stonate per l'effetto di novelle. Se le dure in città di borgo medievale mica le meglio. Voi fighe di legno, noi vergini di ferro. Il mio stilo genuino non mente, se il destino è tra le linee della vita, sulle mani della gente. La mia vita è tra le linee delle viti, nel mio ambiente. Se l'accento si sente, sulle mani per Firenze. Caldo rime sotto banco, in mica stinchi di santo, ma stinchi di maiale con patate. Per finire con cantuccia e vinsanto, qualche urlo ogni tanto, beccazzate sparate. Ogni tipo più ganzo e mica ragazzate, noi spingiamo lo slang invece che con la start. La mia città urla sta di dandà e sporto sonorità da di di là, il pop toscano che fa ancora cantare. Brindisino, la la la la. Brindisino, la la la la. Più in alto. Brindisino, la la la la. Più forte. La la la. Toscana. Brindisino, la la la la. Firenze. Brindisino, la la la la. Per noi. Brindisino, la la la. Divino di Gilemon Tennens, un brindisi a chi ancora si fa il culo a Firenze, un brindisi a chi spinge da un bel po' non si pente, un brindisi per chi ci gonfia queste frequenze, perché se c'è una gem è sempre presente, per chi non si è mai arreso ed ancora non si arrende, per chi fa le serate anche se non c'è mai gente, tirate sui boccali perché ancora ci sente. E quindi brindisi, e quindi un brindisi a chiunque nel 2008 continua a farsi il culo da Arezzo a Pistoia, in questa Toscana che non ci apprezza la primiera lombrigia, perché lo schettullo Olive, testimoni dell'aldilà. E chiunque altro ancora si sbatte giorno dopo giorno e si mette in gioco prima persona. Un brindisi, cazzo.